suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E io del folklorista, alle 6, il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento, che mi abbassa lo sgomento. Passo lento ma violento, che mi abbassa lo sgomento. Passo lento ma violento. È il cammino di Gigi D'Agostino. Ci sono dei pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che grazie alla loro arte e alla loro intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole. Pablo Picasso. Gigi D'Agostino. La radio in colore. vuoi giochi grigi, scrivi a Gigi. 3-3-3-6-4-3-6-7-6-6-2. Il presente è il limite invisibile che separa il passato dall'avvenire. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. A tutti quei ragazzi che ascoltano un solo genere musicale, scartando tutto il resto. Becilli, non sapete cosa vi perdete. È vero, è vero. Pigna. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. La strada per eccellere non esistono limiti di velocità. Samuel Johnson. Yes. L'uomo non è mai vecchio finché è alla ricerca di qualcosa. Jean Rostand. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Ma perché sei così speciale? Gigi dedica una canzone molto speciale alla mia piccola Maria. Sì. Lele 88. Capisci apposta musica. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Bella Gigi. Musica è il linguaggio universale dell'umanità. Henry Wadsworth Longfellow. Il cammino

Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Gigi, sono Anto di Brescia. Vorrei il nome della musica che fai sentire. È meravigliosa. Solitudine è una tempesta silenziosa che spezza tutti i nostri rami morti e tuttavia spinge le radici viventi più a fondo, nel cuore vivente della terra vivente. Khalil Gibran. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Un saluto e un buon compleanno alla tua grande fan. Domenica è il suo 19° compleanno. Roberta e Pia. Sacottino più saccotto, auguriamo un compleanno di scoppiettante allegria. Gli Smiles Maker ti donano un piccolo viaggio dedicandoti Per me amore.

te. Questa è l'isola che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi il dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Questa è l'isola che non c'è. Ho un po' di perplessità. Mando la pubblicità. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vai di cassa. Compleanno di mio fratello Daniele. Auguri, fratello Tamarro, per i tuoi 16 anni. Lascia Gigi la scelta del pezzo, tanto non delude mai. Alessandro da Busto Arsizio. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare, anche solo per dolcemente a chi mi